известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. How are you? So I just want to thank everybody for, not just completely ripping up Gibbs. You know? Vi voglio ringraziare tutti per non aver sbranato il mio caro Gibbs. Questo è Barack Obama che ha fatto ieri una improvvisata in sala stampa, è andato a trovare i reporter, la cosa naturalmente ha sorpreso, ha deliziato letteralmente quel branco così di talpe, no? I giornalisti talpa che vivono praticamente in quella piccola sala stampa, lo hanno accolto festosamente, l'hanno circondato, cioè tutto l'hanno quasi strozzato. Gli hanno chiesto di tutto. Hai già giocato a pallacanestro alla Casa Bianca? L'ho detto no, quando gioco vi chiamo sicuramente. Poi lui si è un po' sorpreso, ha detto ma è piccola questa saletta da cui si parla al mondo, è una stanzetta piccola, e una reporter gli ha detto sì, così potrei entrare senza aver bisogno neanche del passi. Poi hanno provato a fargli qualche domanda più seria, lui ha risposto no, sono qui solo per un saluto, niente di importante per le comunicazioni ufficiali e le domande quelle da graticola, no? Aspettate i momenti delegati. Tutto questo per dire che sta cominciando il nuovo trend, si sta cominciando a capire anche lo stile della Casa Bianca, lo stile dei piani alti, delle decisioni importanti, delle questioni serie, e oggi ne parleremo tornando ad esempio su Guantanamo con una seconda parte del programma dedicata a discutere con un paio di ospiti proprio del senso ma anche della praticità attorno a questa importante decisione e le prime mosse di Gates. Di sapore, tra l'altro vagamente anticinese, cercheremo nei prossimi giorni di indagarle meglio. L'insediamento così molto formale, anche piuttosto ingombrante, di Hillary Clinton al Dipartimento di Stato. I primi giorni della Casa Bianca si stanno dunque via via srotolando, no? Sembrava tanto tempo fa e invece adesso è tutto operativo, tutto funziona, tutto è cominciato, una nazione guida sta provando a dare al proprio essere una nazione guida un significato nuovo, e il resto del mondo osserva, studia, analizza, in certi casi critica, in certi casi assume atteggiamenti scettici, ma sicuramente non può fare a meno di accorgersi della novità in corso. Noi a questo tra l'altro abbiamo dedicato il 50% della domanda, no? Con la quale ormai avrete capito quotidianamente vi perseguitiamo se siete iscritti alla nostra bacheca, la bacheca di Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, più o meno una volta al giorno almeno vi mandiamo dei temi di discussione e voi state rispondendo sempre più numerosi con spunti sempre più interessanti che ci convincono sempre più che tutto ciò sia una specie di fase 1, no? In un nuovo formato del programma che stiamo mettendo a punto, ma di questo ne parleremo man mano. Invece voglio dare qualche altra novità così un po' spicciola, in fondo è venerdì anche per noi, anche per la Casa Bianca, e quindi si può stare in maniche di camicia. Questa è un'altra novità, George W. Bush aveva imposto da bravo uomo del sud un forte tasso di formalismo alla Casa Bianca, e ad esempio nello studio ovale si stava con la giacca e anche ben abbottonata. Invece Barack Obama già è stato fotografato in maniche di camicia, un altro simbolico se vogliamo, comunque un altro piccolo dato di rottura con il passato. C'è anche una presa di posizione così molto un po' guascona, diciamo, della gente di Barack Obama nei confronti della gestione della Casa Bianca per quello che riguarda il livello tecnologico della Casa Bianca. Non gli è piaciuto per niente ai nuovi occupanti quello che hanno trovato, loro che hanno letteralmente vinto una elezione grazie a un utilizzo avanguardistico, intelligente, propositivo, innovativo, in certi casi perfino rivoluzionario, della rete. Invece dice che si sono imbattuti in quella che hanno definito una sorta di medioevo tecnologico. Pensate un po', non? Mi immagino le facce di David Plouffe e degli altri super espertoni, anche un po' nerd, no? Che hanno guidato questa campagna elettorale che proprio sulla rete minuto per minuto, comunicato per comunicato. Io mi sono presto, ad esempio, iscritto alla mailing list di Barack Obama e vi garantisco che quella quindicina, ventina di mail al giorno arrivavano, e non di propaganda, alcune per chiedere soldi, ma molte per dire cose e per prendere posizioni su fatti, su eventi dell'attualità. E invece sono arrivati, insomma, alla Casa Bianca, dice che non hanno trovato neanche il sito Facebook. Come, non avete il sito Facebook? Ma ce l'hanno perfino quelli di Jefferson, e qui alla Casa Bianca non abbiamo il sito Facebook. Bill Barton, quel ricciolino portavoce della campagna di Obama, ha detto: ma per me è stata la sensazione stessa che ho provato o che proverei passando da giocare con una Xbox a giocare con una Atari. Questo è un modo di descrivere le cose della generazione del XXI secolo. Niente Macintosh, per esempio, hanno trovato ad attenderli computer con versioni di 6 anni fa del software Microsoft. E qua già si scatena la polemica AM Mac, AM PC, insomma sappiamo di che si parla. Poi ci sono cose più serie, almeno un accenno va fatto, e riguarda una serie di decisioni o comunque di strade percorribili verso decisioni importanti che dall'ufficio del nuovo presidente già stanno prendendo le mosse, ad esempio la decisione di dare via libera negli Stati Uniti alla prima sperimentazione al mondo che preveda l'uso di cellule staminali embrionali per curare lesioni spinali in pazienti paralizzati. L'ente americano per il controllo sui farmaci, la FDA, la Food and Drug Administration, ha autorizzato un'azienda che si chiama Giron a cominciare la sperimentazione, che come tutti gli studi clinici partirà da una fase condotta su un piccolo numero di pazienti su lesioni spinali gravi, e poi verrà verificata la sicurezza, la funzionalità della terapia. I test prenderanno via entro l'estate, riguarderanno una decina di pazienti, e va ricordato che l'amministrazione Bush nel 2001 ha vietato la ricerca sulle staminali embrionali, autorizzando a proseguire gli studi solo su linee di cellule già esistenti. Obama aveva promesso in campagna elettorale di invertire la rotta, e si direbbe che lo stia già facendo. Il gesto è stato messo in pratica anche per quello che riguarda l'aborto, anche perché ieri ricorreva il 36° anniversario della causa, no, seminale, Roe contro Wade, la causa che ha ratificato negli Stati Uniti il diritto delle donne ad abortire, e c'è stata una dichiarazione scritta di Obama al riguardo. Ha detto: questa causa ci ricorda che la decisione in questione non solo protegge la salute delle donne e la libertà di riproduzione, ma sottolinea un più ampio principio: il governo non deve intromettersi nelle nostre questioni familiari private. Io resto convinto della necessità di proteggere il diritto di scelta delle donne. Parole molto chiare. Oh, e poi invece c'è un'altra novità che vale la pena di essere detta, di essere ricordata. Non riguarda questa volta la Casa Bianca, riguarda però un seggio lasciato libero da un neo amministratore della Casa Bianca, ovvero Hillary Clinton. A lungo si era parlato della possibilità che Caroline Kennedy pigliasse il posto di Hillary Clinton come senatore dello Stato di New York. Poi ieri invece è arrivata la rinuncia, pare per una situazione fiscale in grandissimo disordine e forse un feeling tutt'altro che buono con il governatore Patterson da parte della Kennedy, al che tutti ci eravamo buttati sul nome di Andrew Cuomo, non calcolando una cosa che invece oggi i commentatori più avvertiti ci hanno immediatamente fatto balenare davanti. Democratic Congresswoman Kirsten Gillibrand is in line to become donna, doveva essere donna. Hillary Clinton, donna bianca, lascia un seggio al Senato, donna bianca subentra in quel seggio al Senato. Tra l'altro il nome ormai è già di pubblico dominio. Si tratta di Kirsten Gillibrand, una giovane 42enne senatrice, tra l'altro non newyorkese. Questo è un altro dato importante. Non si voleva dare un eccesso, come dire, di sottomissione, no, al passaggio di mano, come se Hillary Clinton avesse detto: allora questo posto lo lascio a... Invece no, il governatore ha detto: questo posto sono io a decidere a chi lo lascio, e ha lasciato a questa abile politica centrista, democratica centrista, che fa capo alla Valle dell'Hudson. È già praticamente ufficiale, anche se non ancora ratificata, la nomina, quindi il nuovo senatore dello Stato di New York porta il nome della avvocatessa Kirsten Gillibrand. Yeah! Guadagnare il tuo diritto, devi combattere per il tuo diritto di divertirti. You're gonna fight for your right to party. Questi erano i Beastie Boys, era un'America clintoniana, questo diritto di divertirsi un po' è nell'aria anche nell'America di oggi. Ne parleremo adesso parlando di Facebook, delle vostre reazioni al nostro invito. Vi ricordo comunque che esiste anche un semplice metodo SMS per contattarci, il numero è 349-238-6666. Questa mattina vi abbiamo proposto il seguente quesito: la firma alla chiusura di Guantanamo, semaforo verde alla ricerca sulle staminali, Hillary Clinton impone il suo stile al Dipartimento di Stato. Due domande. Primo, che ve ne sembra della prima settimana di insediamento della nuova amministrazione americana? Secondo, che echi tutto ciò sta provocando qui nella nostra lontana provincia italiana? E voi naturalmente vi siete affrettati gentilmente a dire la vostra, ovvero a esprimervi. Express yourself. Eccole qua le vostre risposte, alcune delle vostre tante risposte. Cominciamo da Alessandro, che dice: mi pare un buon inizio americano. In Italia, beh, noi abbiamo problemi più seri da risolvere prima di affacciarci a una politica internazionale costruttiva. Il caso Belen Corona Borriello, un problema che attanaglia la nostra penisola. Gianluigi, l'inizio dell'operato del Dream Team obamiano mi sembra in linea con le promesse, la sensazione di qualcosa di nuovo, ma soprattutto di concreto, è ancora lungi dall'essere confermato, ma un ottimo avvio. Quanto all'Italia, politica a parte, sono fiducioso. Beh, meno male uno. Lunix dice: il messaggio forte è quello di un radicale cambio di rotta. Per quanto riguarda la lontana provincia italiana, secondo me qualcosa sta iniziando a muoversi. Ah, siamo un popolo ottimista, siamo diventati, non me ne ero accorto. Gabriele: non avevo dubbi che avrebbe iniziato bene la faccia di tutti quelli che aspettano le mosse false. Ormai preferisco seguire la politica americana piuttosto che le nefandezze pronunciate dalle parti nostre. Via, non facciamo nomi. Sergio: sono seri, preparati ed efficaci. Obama è molto più colto e intellettualmente lucido di Reagan, Clinton e De Bush. La preparazione, l'insediamento e le prime iniziative sono state preparate meticolosamente. In Italia si è messa invece la sordina. Il primo giorno alla Casa Bianca Obama ha ordinato chiusura di Guantanamo e telefonato in Medio Oriente. I nostri giornalisti nelle loro trasmissioni hanno parlato per ore e ore e ore e ore di Villari, Albano Carrisi, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, un po' così. Massimo: se il buongiorno si vede al mattino sarà una splendida giornata. Quanto all'Italia, la piccola provincia d'Italia sta purtroppo facendo i conti con le medievali questioni federali. Molto giusto. Speriamo che prima o poi qualcuno apra gli occhi. Maurizio: sta facendo quello che in realtà ci si aspettava, discontinuità con il passato sterzata in senso progressista. Italia, chissà mai se riusciremo a capire l'importanza del provvedimento sulle cellule staminali. Sandro: la decisione sulle cellule staminali è dirompente. Abbiamo visto in passato l'importanza delle lobby religiose e parareligiose. Si aspetta, dopo la riflessione su una realtà finanziaria e economica che cambia di minuto in minuto, una serie di decisioni in merito. Quello sarà il vero segnale che aspettiamo. Ancora Giovanni: la prima settimana la definirei straordinariamente carica di tanta energia e convinzione. Italia, ma se ne è parlato in Italia, a parte che qui al programma, mi pareva, vedendo i telegiornali, che gli argomenti fossero ben altri. Peccato, abbiamo avuto poco riflesso positivo dalla bella emozionante settimana americana. Emiliano mi porta notizie riguardo John McCain, che ha parlato di Barack Obama, ha parlato in modo piuttosto positivo, dopo un accenno lo faremo, e che anche il Congresso sta rispettando i tempi per approvare il pacchetto di incentivi per l'economia entro il 16 febbraio, questo anche in connessione a quanto stavamo dicendo dei vostri messaggi, lo avrebbe detto Obama, che ha in programma oggi un incontro con i leader democratici e repubblicani della Camera e del Senato per sbrigarsi a parlare di soldi. Gianfranco scrive: la nostra classe politica si dimostra stantia e gerontocratica. Certo, gli fischieranno orecchie. Capisco Silvio Berlusconi, ma i cosiddetti riformatori perché non fanno un passo indietro e fanno spazio ai quarantenni? Alessandro: finalmente si sta concretizzando il desiderio della gente comune di fare del XXI secolo un'era di umanesimo e pace. Sandro: la fine deve dare un segno di inizio. Beh, questa è profondissima. Richard: beh, prima di tutto questa amministrazione sembra voler cancellare ogni vincolo con il precedente, e questo è un buon segno per tutto il mondo intero e sarà sicuramente un brutto colpo per i gruppi terroristici. Di questo parliamo tra qualche istante. Matilde: sono contenta, soddisfatta delle iniziative prese dall'amministrazione americana, è un piacere vedere in qualche parte del mondo si prendono decisioni e le si porta a compimento in tempi umani. Tempi, questa è una parola indispensabile, fondamentale, un suggerimento straordinario che a parere del sottoscritto arriva da oltreoceano. I tempi applicati alla politica possono essere anche fantasticamente brevi, ma mi sembra che qua da noi ce ne siamo un po' scordati. Riccardo: chi ben comincia è già a metà dell'opera, siamo andati sul sicuro. Elisabetta: una prima settimana in sintonia con le promesse e quindi con le molte aspettative. E infine l'ultimo slot la diamo a Vito, che dice: per ora è percorso netto, 2 su 2, il sogno si realizzerebbe se Barack cominciasse a immettere una dose di creatività che spiazzasse tutti. Qualche idea? Vito ha delle idee per Barack: fornire a Ahmadinejad e altri presidenti del mondo islamico la tecnologia per sfruttare energia solare, per stipulare una grande alleanza per sfruttare il sole del deserto, proporre seriamente l'ingresso di Israele nell'Unione Europea, fondare un'alleanza tra l'Unione Europea e Nord Americana. Idee dirompenti. Complimenti, Vito. E questo era il nostro, più che altro vostro, Express Yourself di oggi. Di grandi temi americani, ma anche internazionali, parliamo tra poco. Vi ricordo il nuovo formato a 360 gradi di Jefferson versione 2009, e quindi ci risente tra qualche istante. Yo, Rockin', what's up? Yo, I'm doing the knowledge, E, man. I'm trying to get paid in full. Well, check this out. Since Norby Walters is our agency, right? True. Kara Lewis is our agent. Word up. Zakiya and Forth and Broadway is our record company. Indeed. Okay, so who we rolling with then? We rolling with Rush. Our Rush Town Management. So check this out. Since we talking over this deaf beat right here that I put together, I want to hear some of them deaf rhymes. You know what I'm saying? And together, we can get paid in full. Thinking of a master plan, 'cause ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket, all my money spent. So I get deeper, but still coming up with lint. So I start my mission, leave my residence, thinking how could I get some dead presidents. I need money. I used to be a stick-up kid, so I think of all the devious things I did. I used to roll up, this is a hole up. Ain't nothing funny, stop smiling, you still don't nothing move but the money. But now I learn to earn 'cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just search for a 9 to 5. If I strive, then maybe I'll stay alive. So I walk up the street, whistling this, feeling out of place, 'cause man, do I miss a pen and a paper, a stereo, a taper. Me and Eric being a nice big plate of fish, which is my favorite dish, but without no money, it's still a wish. 'Cause I don't like to dream about getting paid, so I dig into the books of the rhymes that I made. So now it's a test to see if I got pulled. Hit the studio, 'cause I'm paid in full. Akim, check this out. Yo, you go to your girl's house and I go to mine, 'cause my girl is definitely mad 'cause it took us too long to do this album. Yo, I hear what you're saying, so let's just pump the music up. and count our money. Yo, but check this out. Yo, Eli, turn the bass down and just let the beat keep on rocking. Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. We're going to take a closer look tonight at the sweeping orders that President Obama issued today concerning the treatment of terror suspects. The new president says America is taking the moral high ground and making the country safer in the fight against terrorists by limiting interrogation methods and closing Guantanamo. 248 detainees are being held at Guantanamo, many of them held for years without being charged with a crime. Jake Tapper raised the critical questions earlier in the broadcast. Do these orders really make the country safer? Fa questo, rende questo ordine firmato dal presidente Barack Obama di chiudere Guantanamo il nostro paese più sicuro? In effetti, quali saranno, no, le conseguenze di questo gesto che ha un valore simbolico straordinario, come noi e anche voi con i vostri messaggi ieri abbiamo un po' da tutte le angolazioni sottolineato, ma poi dopo che succede? Abbiamo visto che da un punto di vista formale, anche procedurale, le complicazioni, anche i tempi, in questo caso sono lunghi, sono le scelte da fare sono ancora tante, ma poi soprattutto invece tornando alla temperie, così all'atmosfera psicologica, che cosa succederà? Il nostro paese, il loro paese, l'America e di conseguenza un po' anche il mondo, se me la passate, si può sentire più sicuro? Oggi il New York Times racconta di un ex detenuto saudita nel carcere di Guantanamo, scarcerato dalle autorità statunitensi, che sarebbe diventato il vicecomandante della cellula yemenita di Al-Qaeda. Si chiama Said Ail Shiri, è sospettato di coinvolgimento in un attentato dinamitardo nella capitale yemenita Sana contro l'ambasciata americana nel settembre 2008. È stato rilasciato e consegnato all'Arabia Saudita nel 2007. La lezione è che chiunque riceve ex detenuti di Guantanamo deve sorvegliare bene su di loro, hanno fatto sapere fonti dell'amministrazione di Washington. Proviamo ad approfondire il discorso con due ospiti che abbiamo in linea, anche se il tempo naturalmente come sempre un po' tiranno. Comunque proviamo a dire delle cose con Mauro Palma, che è il presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura. Buon pomeriggio, Mauro. Buongiorno. E anche con Guido Moltedo, un nostro abitué qui in trasmissione, capo delle relazioni esteri d'Europa e autore di un libro su Barack Obama intitolato Barack Obama, la rockstar della politica americana, da UTET. Ciao Guido. Saluti. Allora Mauro, questo diverso livello della notizia e comunque anche del contorno della notizia della firma di Obama, un livello altamente simbolico, anche un'emozione da qualunque angolazione la si guardi, delle complicazioni procedurali e poi delle notizie invece pratiche a contorno, no? Su chi sono, dove vanno, dove potrebbero andare, cosa potrebbero fare, che destano una certa inquietudine, anche se naturalmente sentire un presidente dice noi non siamo un popolo che tortura, naturalmente incoraggia. Che ci dici, Mauro? Ma dunque, partiamo dall'aspetto senz'altro molto positivo, che è simbolico ma è anche culturale, cioè la frase in qualche modo clou anche del discorso di insediamento di Obama è che non si baratta, diciamo, la sicurezza interna con il non rispetto dei diritti umani e dei diritti fondamentali delle persone, e questa, diciamo, è un'inversione culturale forte che in qualche modo va presa, va letta positivamente, che diciamo tronca anche uno strano dibattito che c'era stato negli anni passati su quanto potessero essere produttive pratiche come gli interrogatori di un certo tipo, la tortura e via dicendo. Detto questo, poi smantellare l'impianto di norme e di pratiche che è stata messa in essere negli ultimi anni non è semplice, e si pone un principio che direi che è il principio fondamentale. Le persone private della libertà devono essere private della libertà, e giustamente lo sono in questo caso, se c'è un capo di imputazione nei loro, certo, confronti, se c'è un sospetto nei loro confronti. Certo. Allora, gran parte delle persone che erano a Guantanamo e che sono a Guantanamo non sono imputate, certo, cioè sono sospettate genericamente ma non imputate. Si citava prima Said Ail Shiri, mm-hmm, rimandato in Yemen e via, certo, dicendo. Bene, e l'imputazione l'imputazione, se c'è l'imputazione nei suoi confronti, doveva essere rimandato con pratiche che garantissero che poi nel suo paese venisse in qualche modo processato. Bene. Guido, si è tentato proprio nel cercare di dirimere questa questione che, ripeto, ha, come dire, un effetto immediato, no, esplosivo, ma poi c'ha queste code che invece sono un po' più preoccupanti. Si è ricominciato a cercare una definizione, forse addirittura una definizione terza per la natura, lo stato, la condizione di queste persone fin qui imprigionate a Guantanamo, no? Si prova a collocarle in una nuova casistica legale, che però sembra che la nuova amministrazione americana, tra l'altro, sia poco favorevole a proseguire, a perseguire. Come intravedi questo aftermath, questo effetto collaterale, queste turbolenze dopo la grande notizia? Adesso c'è un gruppo di lavoro che si deve cervellare per trovare le soluzioni tecniche al problema. Io credo che le soluzioni tecniche si troveranno, non credo che sia il principale problema. Questo, appunto, una soluzione sarà di tipo giuridico e di tipo poi logistico, dove mettere queste persone. Tra l'altro, alcuni, come anche è stato ricordato prima, sono stati già rilasciati dalla precedente amministrazione, certo. Mi pare addirittura una sessantina, e alcuni dei quali, appunto, poi hanno raggiunto gruppi guerriglieri in qualche parte del mondo. Ma il problema, appunto, è del messaggio, come è stato anche detto prima. Ma anche quello è impegnativo come messaggio, perché è una scommessa da parte di Barack Obama, vedere se la sua idea di una, come dire, di una logica virtuosa possa fare breccia, cioè mettere in atto un circuito virtuoso attraverso cui un buon gesto da parte dell'amministrazione americana può dar luogo a un abbassamento della temperatura in generale. Continuo allora con te con una seconda domanda. Chiariamo, non è solo, oltre che un gesto di perseguita civiltà, un messaggio all'America interna, no? Agli americani, è anche un messaggio, ci auguriamo, al mondo, che dovrebbe, sì, avere poi delle risposte, no? In questo senso. Esattamente, questo volevo dire, certo. Cioè vedere un po' se questo, che non è da prendere singolarmente come fatto in sé, che, di cui ovviamente l'importanza non sfugge a nessuno, l'importanza in sé per sé, ma anche le conseguenze sul piano della, diciamo, anche diplomatico e politico più generale, il messaggio inviato poi soprattutto al mondo islamico. Non dimentichiamo che questo atto non è disgiunto dall'apertura di credito nei confronti del mondo arabo, che è stata una degli aspetti principali del discorso di insediamento di Barack Obama. Quindi io vedrei le cose anche nella loro combinazione. Questo è importante, secondo me, questo tipo di collegamento. Arriva dagli ascoltatori una domanda per Mauro Palma, che vi ricordo è il presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura. Arriva da un'ascoltatrice che si chiama Claudia, più di una domanda, ma te ne faccio una soltanto. Dice, portando verso casa il tema, dice: in Europa non torturiamo o lo facciamo in silenzio? Cosa puoi dire a questa domanda? Diciamo, purtroppo il problema della tortura anche nel territorio europeo, mi riferisco all'Europa in senso largo, l'Europa del Consiglio d'Europa, che include anche la Russia, la Turchia e via dicendo. Dicevo, l'Europa in senso largo, non possiamo dire che è stata debellata la pratica della tortura. Fortunatamente, in casi che esistono, però, sono casi che in qualche modo vengono considerati da parte degli stati una specie di infamia, di un'onta, vengono in qualche modo perseguiti, vengono tenuti, per esempio, nascosti alle nostre indagini. Diciamo, non c'è in Europa una situazione in cui si possano dare degli ordini su come condurre gli interrogatori che prevedano al loro interno anche delle pratiche che sono pratiche di tortura, come era stato invece nel caso degli ordini di interrogatorio dell'amministrazione americana. Ecco, per concludere, quest'ultima domanda la faccio a tutte e due, vi prego di essere rapidi perché siamo con i tempi stretti, ma insomma, non più tardi di una settimana, 10 giorni fa, abbiamo abbiamo visto il discorso di commiato di George W. Bush, all'interno del quale a un certo punto Bush è arrivato, ha voluto anzi non sottrarsi, ha voluto toccare la questione dell'utilizzo di alcune forme di trattamento paragonabili a tortura o paragonate al suo tempo a tortura, waterboarding e quant'altro, perché attraverso quel metodo la sicurezza americana aveva avuto di che guadagnare, quindi gli americani ne erano stati in un certo senso protetti. 8 giorni dopo sembriamo già in un altro mondo, ma non può scattare a un certo punto un meccanismo, no, di nostalgia, tra virgolette, non appena qualche evento dovesse andare in scena? Ma io non credo, perché in qualche modo poi queste pratiche in realtà non sono efficaci e produttive, se la vogliamo mettere anche sul piano dell'efficacia. Non è vero che si tuteli la sicurezza in questo modo, si mette in giro il circolo esattamente opposto a quello che si diceva prima, cioè un circolo negativo che poi aumenta, diciamo, l'insicurezza globale. Non a caso Peter ci ha appena mandato da Trento un SMS che giro a te come ulteriore provocazione, Guido. Dice: ci ricordiamo che sono terroristi? Punto di domanda. Ma guarda, questo è un aspetto importante che non credo che l'amministrazione Obama prenda sotto gamba. Dal punto di vista di Bush, io credo che lui debba essere contento, e con lui Dick Cheney e Donald Rumsfeld, se non verranno aperte delle indagini nei loro confronti per come hanno condotto la loro amministrazione e come hanno usato questi metodi nel corso della loro lotta al terrorismo, cosiddetta lotta al terrore. Uh-huh. Io credo che Barack Obama non alluda a questa possibilità, e credo che sia un grande sollievo per loro, perché normalmente si sarebbe aperta già un'inchiesta nei loro confronti. Va bene, il messaggio è che gli Stati Uniti intendono portare avanti la lotta contro la violenza e il terrorismo restando vigilanti ed efficienti, ma anche rispettosi dei nostri valori e dei nostri ideali. Questo è il messaggio con cui il Presidente ha sottolineato questo gesto assai, come dicevamo inizialmente, simbolico e dai significati evidenti. Grazie a Guido Molteto e a Mauro Palma. Gradi. News dai punti sensibili del pianeta. Sì, perché c'è un pianeta fuori dalla Casa Bianca. Alicia ci manda una mail dicendo: ullala, che esaltazione per Mr. Obama. A lei, tra l'altro, dice, le decisioni prese nella prima settimana di presidenza l'hanno depressa, e questo è perfettamente legittimo. Altresì, tutto il mondo è attento, anche i nostri ascoltatori sono attenti. Alcune notizie importantissime improvvisamente finiscono sommerse, no? Capita sempre così. Quante volte l'abbiamo raccontato? Birmania, Tibet, Gaza. Vi dico la parola Gaza, ma a che pagina sta dei giornali oggi? Andiamo un po' a vedere, e invece noi vogliamo un po' tornare a parlarne, prima di tutto perché questa è una delle modalità e delle finalità del nuovo formato del nostro programma, stare attenti alle aree di crisi, ai punti caldi, alle zone sensibili, un po' perché nel frattempo, ad esempio, leggendo anche i giornali, anche i grandi giornali italiani, si nota qualcosa di assai interessante che andrebbe sottolineato, per esempio una metamorfosi della notizia Gaza, vero Emiliano? Facciamo un brevissimo, piccolissimo passo indietro a ieri, quando Lorenzo Cremonesi ha scritto sul Corriere della Sera, parliamo di uno dei più bravi, più intraprendenti inviati del giornale, che frequenta tantissimi territori di guerra, e ha scritto un pezzo mescolando testimonianza diretta sua con invece i racconti di palestinesi, un pezzo molto critico nei confronti di Hamas, fine dal titolo "Noi usati come scudi", e infatti il pezzo si apre con un virgolettato di alcuni palestinesi che si rivolgono direttamente ai miliziani di Hamas e che dicono: andatevene via di qui, volete che gli israeliani ci uccidano tutti, volete vedere morire sotto le bombe i nostri bambini, portate via le vostre armi e i missili. Quindi rimbalza l'accusa che in qualche modo Hamas abbia voluto sfruttare bambini, anziani, donne come martiri per la loro causa. Questo riapre anche un po' il senso del punto di vista della notizia, sempre una questione pericolosa. Addirittura poi Cremonesi, che ha visitato tutta una serie di ospedali e di cliniche nella striscia di Gaza, sostiene l'ipotesi che in realtà i morti per l'operazione piombo fuso possono essere molti meno di quelli sanciti per esempio oggi dal Centro Palestinese per i Diritti Umani, che parla ufficialmente di 1.285 palestinesi uccisi a Gaza nell'operazione di Israele, e citando per esempio un medico del più grande ospedale di Gaza, che si chiama Shifa, dice che alla fine i morti potrebbero essere 5-600, quindi la metà. E a questo punto Cremonesi, direi con giusto scrupolo di giornalista, chiede: ma com'è possibile che si arrivi a queste cifre così distorte, così diverse? E c'è un esempio, cosa diciamo noi, però se non altro la notizia non va completamente in sabbia. C'è un esempio che a questo punto potrebbe essere inquietante. Si fa riferimento per esempio al massacro della famiglia Al-Samun nel quartiere di Zeytun. E il medico dice: quando le bombe hanno colpito le loro abitazioni hanno riportato che avevano avuto 31 morti. Poi, quando i corpi sono stati effettivamente recuperati, la somma totale è raddoppiata a 62. Quindi si entra qui anche nello spinoso tema della manipolazione delle notizie, anche da comunicare al resto del mondo. Il caso resta aperto. Io ho visto anche che su Facebook si sono scatenati commenti pro o contro a questo pezzo, comunque, che andava la pena di essere segnalato, quello del Corriere della Sera di ieri, a firma di Lorenzo Cremonesi. Bene, quindi il caso resta aperto e a costo di ascoltare versioni differenti, anche discordanti, se non altro continuiamo a parlarne, se no ha ragione la nostra ascoltatrice Licia, che dice: ci concentriamo ipnotizzati da una notizia e non vediamo più le altre. Noi tra l'altro su Gaza abbiamo tra l'altro in attesa un contributo interessante, vero Milano? Sì, un contributo di una nostra amica, insomma, che ci aiuta ad aprire un po' di luce nelle ombre, uno squarcio di sole, insomma, in questo intricato contesto medio orientale, Maria Grazia Nardo, che insegna a Firenze e alla quale abbiamo in particolare chiesto che cosa a questo punto Israele deve aspettarsi dalla nuova amministrazione Obama. L'era dell'indulgenza di Bush è veramente chiusa. E gli israeliani in genere sono stati molto preoccupati per la candidatura di Obama, gli preferivano di gran lunga McCain, e questo assieme alla nomina della nuova squadra non potrà che allungare tutti i tempi e richiedere da parte del governo israeliano, anche quello nuovo dopo il 10 febbraio, un'attenta considerazione di tutto il quadro dei rapporti con gli americani. Però, Maria Grazia, tra i nomi scelti da Obama ci sono figure che almeno sulla carta sono dichiaratamente filo-israeliane, come la stessa Hillary Clinton o il capo del gabinetto Rahm Emanuel, che è figlio di un israeliano. La signora Clinton da senatore era sicuramente filo-israele, da segretario di Stato che già teorizza uno smart power potrebbe anche lei dover riesaminare ogni questione. Rahm Emanuel è figlio di un israeliano, ma è soprattutto un americano, e inoltre tra molti esponenti americani, ebrei e non ebrei, si fa avanti una teoria molto precisa, quella del tough love. Bisogna amare Israele, sostenerlo, ma anche, se necessario, essere franchi e, se necessario, anche duri. Beh, Bene, questo almeno per riaprire il discorso. La settimana prossima poi la questione potrà essere approfondita anche con la visibilità delle prime mosse americane in questione, soprattutto con Hillary Clinton e alle sue spalle la nuova presidenza che comincerà a attivare la propria linea di condotta nei confronti degli Stati Uniti d'America. Vogliamo dare un'occhiata intanto a Pechino? Brevissimo squarcio cinese. Intanto ricordiamo che nella notte tra domenica e lunedì si entra ufficialmente nell'anno del Bu, è il capodanno cinese. Del bufalo del toro. Del bufalo del toro, poi a seconda delle traduzioni. Poi, pochi minuti fa ho parlato con il nostro amico Gino Guarda, che sì, ha incontrato un altro sì, nostro amico, che è Paolo. Di cui non ci siamo però scordati. I dettagli ve li daremo magari un'altra volta. L'incontro tra due veneti a Shanghai è una cosa assolutamente memorabile, straordinaria. Potrebbe sembrare surreale, ma è verità. E poi avete visto oggi che la Gelmini ha usato YouTube per annunciare le seconde prove alla maturità. Ebbene, quest'anno per la prima volta, nei licei linguistici che lo prevedono, ci sarà la prova scritta di cinese. Direi bene, un passo avanti molto importante. Come diceva quello, sono affari vostri. Io ti interrogo in cinese, caro Emiliano, non escludo di farlo, prima io prenderò il mio 4 canonico. Oh, tra l'altro è arrivato anche, sono arrivate un paio di notizie notevoli, no? Sapete che insieme alle nomination agli Oscar è arrivato quello al film più brutto, a The Love Guru, su cui volevamo fare un approfondimento, la commedia di Mike Myers, ma manca il tempo, mentre invece dell'ultima ora, proprio in scena in questo momento, sta andando questo governatore Patterson dello Stato di New York, che si sta dando un grande affare nelle ultime ore e ha deciso di tassare del 18% le bibite gassate per cercare di far dimagrire i suoi concittadini. E molte altre cose in corso qui. Non possiamo dare attenzione fino alla prossima settimana qui a Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, redazione Emiliano Enrico, regia a Roma Valerio Rocchetti e a Milano Giacomo Spunta. Abbiamo, signori e signori, finalmente, abbiamo rullo di tamburi, una mail. La mail è Jefferson2 col numerino, Jefferson con, dopo un 2, @radio24.it. Se non ve la ricordate, andate sul sito Radio 24 e c'è l'accesso automatico alla nostra mail. Cercateci su Facebook, redazione Jefferson 2, per parlare con noi. In questo caso 2 lo dovete scrivere in parola, oppure Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, la bacheca in dove si discutono gli argomenti che giorno per giorno vi proponiamo e si partecipa, come dire, alla collettivizzazione di Jefferson. Che oh, naturalmente un'altra novità, la replica questa sera va alle 24, ma anche per le vostre intense affettuose pressioni la settimana prossima, suasion, sì, la settimana prossima va alle 23, quindi da lunedì replica alle 23, diretta lunedì dopo un ottimo weekend attorno alle 4, come sempre qui da Radio 24 ci risentiamo.